oscure, batti senza paure, batti finché non trovi di tutte le cose più dure, batti finché l'anima non ha coraggio di più battere, perché non ha più voglia di fare la troia con questo mondo, non ha voglia di fare la foglia, quest'anima si vuole elevare in questo mondo marcio come un dentifricio da mettere su dei denti sporchi, questo è come sono i soldi da noi, sono contraffatti, rubati e riciclati, noi siamo la mala che fa tutti questi sfigati, allucinati morti, siamo come i cristi risorti, siamo come la pazienza quando la scrive pazienza su un fumetto, quindi ci si diverte lo stesso, anche se questo mondo fa difetto, noi siamo il calice perfetto da cui bere un vino disgustoso, siamo come la lossi ma al contrario quando le mani sporche di sangue, siamo come il Dio che comanda a tutti di non bestemmiare ma poi spara sulla gente, siamo come quel deficiente che appena passato sì ma in realtà è un genio e la gente lo tratta da scemo, sai perché? Perché c'è un individuo, un'invidia che non si vede più, che negli anni l'ha provato e l'ha cancellato, e Gesù che è così buono perché così l'ha fatto così sfigato da avere per sfortuna una penna tra le dita e nessuna donna la fa a leccare ogni mia ferita, ecco perché questa partita non è finita, è proprio perché voi stiamo cercando un'altra vita, una più degna, ma non un'altra vita nel senso che cambio identità e mi sposo con una che avevo in gamba un altro matrimonio, sono soltanto uno libero, uno saggio, uno single, voglio una vita anch'io da figo. Anch'io una vita da figo.